chalet, gaio come te, sorridente azzurro come il ciel. Con tutto il suo tepore, con tutto il suo confort, avremo l'illusione d'un grande hotel. Dietro un separé, prenderemo il tè, sorseggiando baci di passione. E al tramontar del sol, un languido signor ci canterà d'amore la sua canzone. Tremule le stelle ci faranno ancora più belle, come dama in una fulgida sorella. Solo in quel momento una radio, un valzer lento, noi daremo ricevimento, oui madame, oui monsieur. Poi l'oscurità, poi l'intimità, mentre sogni ed io mi sogno te. Più vivida del ciel, la luna che di miel sorriderà sul piccolo chalet. Quando tu mi baci pur nell'estasi chissà, sento che qualcuno il nostro amore turberà. Ma v'è un dolce nido dove tu verrai con me, un grazioso e piccolo chalet. Piccolo chalet, gaio come te, sorridendo al giorno come c'è. Con tutto il suo decor, con tutto il suo confort, avremo l'illusione di un grande te. Dietro un separé, prenderemo il tè, sorseggiando pace di passione. Che al tramontar del sol, al languido signor, ci canterà d'amore la sua canzone. Tremule le stelle ci faranno ancor più belle, come dame in una fulgida soirée. Solo in quel momento un radio vuole avanza lento, noi daremo rendimento, oui madame, oui monsieur. Poi l'oscurità, poi l'intimità, mentre sogni ed io mi sogno te. Più vivida del ciel, la luna che di